c'è dentro il quartiere. In oro le teste sparati, e in tesero tutto finito per loro, in Francia padron lo straniero. Disperso l'esercito signore vincitore, ahimè l'imperatore prigioniero. Stringendosi al sé la triste novella sentita, l'uno dicea: io vengo me, mi brucia la vecchia ferita, e l'altro allora: vorrei morire anch'io con te, compagno mio, ma moglie, figli e vivere non potranti, io manco, io anch'io ti dirò, ma te, perciò, non sono il mio primo pensiero, vendicare potrò, se fame avrà, l'imperatore prigioniero. La prece mia non obbligare, io solo sento per morire. In patria d'Areca la triste mi accoglia, in Francia mi fa seppellire. D'onore la croce a